24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Siamo qui alle 6:33 minuti. Buongiorno cari italiani, è iniziata ufficialmente la 54esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Oggi lunedì, così come la 54esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, può ufficialmente aprirsi. Oggi siamo qui a 24 mattino, c'è Miriam Luque. No. Vedi l'abitudine. Brutto cretino d'un Milan. Mannaggia miseria, c'è Miriam Lucchetti che dorme per la... e c'è Elisabetta Fusconi in redazione. Ecco, questo era esattamente la frase che volevo dire. E c'è Peter Be... no, c'è l'alpino che dorme, reduce da Pordenone. E non voglio sapere perché dorme ancora alla lunata degli alpini. E c'è il nostro Pietro Lacorte in regia anche oggi. Domani ci rimandi l'alpino tutto ammaccato, tutto ubriaco, vabbè. E allora dai, apra il Parlamento, su. Bella quella, cretino, non mira. Quanti? Questa me la paghi. Pietro Lacorte appena arriva mi mette subito il brutto cretino d'un Milan. Eccolo qua. Brutto cretino d'un Milan. Vabbè, abbiamo capito, eh. Allora voglio salutare il responsabile della comunicazione del Partito Democratico, Francesco Nicodemo. Buongiorno. Eccoci. Ciao, qua. Buongiorno. Ciao. Come va? Tutto bene? Il Napoli è salvo? Allora, chiedi alla persona sbagliata, non è che sia proprio tifoso del Napoli io, quindi... No, è vero. Tu sei un gobbo, ma non lo so, cosa sei tu? No, io sono purtroppo romanista, quindi... Ah, già, è vero, sei io qua. Allora, ti presento uno che vi ha battuto 1-0. Si tratta di Federico Novella, conduttore buongiorno, di Mattino 5. Eccoci qua. Buongiorno, vedo che c'è un bel clima oggi. C'è un bel clima. Ma chi è che... Ho capito che ha segnato Osvaldo. Chi? Hai capito? Che ha segnato Osvaldo della Juve. Osvaldo chi? Osvaldo, eccolo lì, mamma mia, Nicodemo, che polemicuccia, no, Federico, ha segnato Osvaldo. Vedo Alessandro che stai cercando di cambiare argomento per non concentrarti sui tuoi, gli argomenti. No? Vabbè, ma guarda che io è da mesi, adesso mi hanno dato del rosicone, mi hanno detto, sì, perché io è da mesi, e lo sa chi mi segue, che dico il Milan doveva stare fuori dall'Europa, è un po' un Milan grillino. Dove doveva andare a fare la Coppa America? Dall'Europa League, insomma, o fai la Champions League, o il resto sono coppette che lasciamo all'Inter, dai, insomma, meglio stare fuori, risorgere. Ma ieri si è giocato, non mi ricordo, sì. Non lo so, sì, può essere di sì, anch'io effettivamente sto aspettando che riparta il campionato quest'anno, è stato sospeso per i mondiali quest'anno il campionato di calcio, sospeso per i mondiali. Va bene, allora, intanto, che avete a Mattino 5, Federico, che fai? Parlo un po' delle inchieste. Ma inchiesta dai. Soprattutto di Milano, insomma, quella che riguarda, insomma, alcuni ambienti dell'Expo, e poi parliamo della spending review, dei costi dello Stato. E cosa ci racconterete? Che il nostro buon Renzi, guarda che qua Nicodemo prende appunti poi dopo, Sì, lo so, ma guarda, c'è il ministro Lupi, ci sono vari politici dalla Lega, e noi siamo tormentati dalla par condicio in questi giorni. Mamma mia, io ho scoperto l'esistenza di partiti che io francamente tu lo sapevi che esistono ancora i Verdi? È incredibile, esistono i Verdi. Ma tutto il rispetto per i Verdi, ma massimo rispetto, siamo in par condicio del tono. Massimo rispetto per i Verdi, Maie, tu non sapevi che esisteva il Maie. Maie, che sta per? mi cogli il preparato. Andrai a studiare. Se ti aprono, studiare te lo dico. Se ti aprono la sbarra di Mediaset, se ti aprono la sbarra, la sbarra se mi aprono, sempre se non, ti è detto. Non è detto. Allora va bene, vabbè, ma questa cosa delle tangenti, insomma, è tutta una roba. Sono giorni che mi sembra di essere ripiombato nel 1990, quelle parti lì. Insomma, Nicodemo, tu che facevi nel 1990 quando leggevi? Ma io facevo, guarda, ti dico, la terza media. Ecco, appunto, e sapevi già Tangentopoli, ti informavi, no? Venivo da una famiglia un po', cioè, ma mio nonno era molto comunista, quindi sì. un po' mi informavo, però sinceramente a 13 anni andavo appresso a cose un po' più interessanti, un po' più interessante. Però vale... anche a me mi ricorda quel periodo, mi ricorda 92-93. Sì. Senti, ma spiegaci un po', è vera la mossa di Cantone? Ha messo Cantone, metterete Cantone lì a controllare tutto quello che succede all'Expo, almeno si legge sui giornali. Guarda, sinceramente non lo so, però da non solo da insomma da Democratico, ma soprattutto da Campano, secondo me sarebbe una scelta interessante, nel senso che noi qua sappiamo benissimo il lavoro che ha fatto Raffaele Cantone in questi anni. Mm-hmm. E quando Matteo Renzi l'ha indicato proprio come uno dei punti principali del suo programma di governo, cioè dare l'autority anticorruzione a Raffaele Cantone, e poi il fatto che tutti l'abbiano votato nelle due commissioni a Camera e Senato in maniera unanime, significa che c'è una grandissima fiducia nei suoi confronti, quindi secondo me sarebbe una cosa più che positiva, diciamo. Sappiamo benissimo il tema della corruzione, il tema dei costi della corruzione in questo paese è una delle cose più pesanti che deve essere affrontato meglio, no? Sì, si parla di 60, si parla, insomma, sono cifre un po' complicate da fare, però si parla di 60 miliardi di euro l'anno, quindi insomma. No, ma è chiaro che le cifre sono quelle. Poi leggere gli spaccati, no, delle intercettazioni, caro Federico Novella, devi leggere i giornali, è tutto pieno. Oh, c'è anche un'intervista a Lupi, te lo dico, fa un'intervista su Repubblica a dire: perché dovrei dimettermi? Sono tutti dei millantatori. Bravo, meno male che ci sei tu che mi fai il sunto. Dice: sono tutti millantano la mia conoscenza, io non mi devo dimettere. Anche Bersani, mi pare che abbia detto sì, così. Sì, anche Bersani, tutti, cioè Bersani ieri. C'è questo capo della Manutencoop, che è una delle cooperative che avrebbe spartito appalti, insomma. Oh, e qui è tutto come prima, è tutto. Sì, mi fa pensare alla Littizzetto che ieri ha detto: mi sembra di essere tornata a 93, ho paura di affacciarmi alla finestra e veder passare un aritmo. Come nel 93 proprio, no? Ecco, e mi viene voglia di tornare a giocare a Subbuteo. Ma grandissime partite a Subbuteo con mio fratello. Che onestamente Subbuteo negli anni 90 era un po' in crisi, diciamoci la verità. Subbuteo è un po' più adesso sta tornando di moda, lo so, perché c'è un bambino di quell'età e ormai lo trovi in casa tutti i ragazzini in Subbuteo. Vedete, torna tutto. Non si può assolutamente fare un passo in avanti, assolutamente torna tutto. No, però questa vicenda di Lupi effettivamente dice anche questa frase: CL non c'entra nulla. Ecco, su questo, che non c'entri nulla sulle tangenti, per carità, non voglio dire niente, però pensare che non ci siano dei potentati in Italia che controllano nomine eccetera, di Lupi, che i potentati ci sono, non sono sicuro che c'entrino tanto i partiti questa volta. Forse questa è la principale differenza che mi distingue questa vicenda qua da Tangentopoli, cioè Tangentopoli era, lo sappiamo, una grande sala mensa, diciamo, per i partiti. Ecco, sì, che aveva come finalità il famoso finanziamento illecito alla politica. Sì. Questi qua sono personaggi che cercano, mi pare di capire, un arricchimento personale, poi possono avere le conoscenze millantate o meno, ma non c'è il foraggiamento al sistema. Sì, forse la differenza è questa, sì. Sì, comincia anche a me questa lettura, anche tra l'altro ho letto forse Rino Formiga, non so se tutti se lo ricordano, ma all'epoca diciamo un importantissimo ministro socialista, ho letto a qualche parte che ha sostenuto praticamente la stessa cosa. No, ma è vero, adesso c'è l'idea è che dove c'è un appalto purtroppo c'è qualcuno che punta a farci la cresta, questo è il dato di fatto. Se negli anni 90 era per dare soldi ai partiti, al sistema dei partiti, qui sembra proprio per, come dire, per prendersi i soldi per sé e spartirsi, no? Cioè, devo dire, è un po' triste l'idea che ci debba essere un grande controllore adesso, no? Cioè, speriamo che Cantone, se sarà Cantone, possa fare benissimo il suo lavoro, probabilmente lo farà, però è triste l'idea che fino a ieri non c'era bisogno di controllare, sì, e adesso invece c'è bisogno di un grande controllore nazionale che stia lì a verificare che non si passino le mazzette all'Expo. No, o forse prima c'era chi doveva controllare, è stato in qualche modo. Ecco, evidentemente chiediamoci anche se ci fosse qualcuno che doveva controllare e non ha controllato. Evidentemente sì. Comunque io volevo chiedervi questo: come siete messi a dentiere? No, per ora masticchiamo con i nostri mezzi, diciamo. Voi siete giovani, anch'io sono giovane, ma è arrivata la promessa, ancora è tornata, più dentiere per tutti, per carità, c'è la par condicio, Nicodemo, non ridere, anzi se ridi, se ridi, novella non applaude. Non rido, è che ogni anno, posso dire una cosa, sì, cioè io come avete capito sono ragazzo degli anni 90, quindi io questi 20 anni mi sono visto tutte le lezioni da adolescente, sì, adesso sì. Ogni anno c'era sempre un'invenzione, qualche cosa, sì, un po' di artificio, quest'anno sono un po' un track napoletano un po' che non è molto forte. No, dici no, le dentiere questa l'hai già sentita, effettivamente. Non è che funziona tantissimo. No, comunque è meravigliosa, diciamo, c'è sempre meravigliosa. Vabbè, comunque Berlusconi che promette, tornerò in Parlamento. Non ho capito questo, come può tornare in Parlamento, ma sentite. Presidente, è scaduto questo termine dei 6 anni, possiamo dire che lei tornerà in Parlamento? Io tornerò molto prima, perché la sentenza che ha dato il via a tutto sarà presto dichiarata ingiusta ed annullata. Quindi si ricandida, comunque è sicura questa cosa? Vediamo come vanno le cose, ma insomma, importante che questa sentenza sia dichiarata per quello che è. E questo andremo a scoprirlo, non si sa perché Berlusconi è così certo di questa cosa. Poi, ma ieri a Canale Italia ha promesso dentiere per tutti, mi posso prenotare. Ti puoi prenotare, che tra l'altro oggi Repubblica fa un conto, dice è una roba pazzesca, che costa, fai non so, dai 2 ai 3.000 euro, moltipli. È un raffinato gioco di squadra con Renzi, perché lui promette le dentiere e Renzi con gli 80 euro quello da metterci sotto le dentiere, no? Pane e companatico, insomma. Mi sembra un accordo, di la verità, Nicodemo, è così che si sentono tutti i giorni, hanno messa così, tu offri la pizza, Renzi, che io metto i denti. Come chi ha il pane non ha i denti, io offro il pane e tu offri i denti. Era un po' addormentato stamattina, è spumeggiato, mi sto subito svegliando anche su queste cose. Questa effettivamente, ecco la prova dell'inciuccio, l'inciuccione. Riforme odontoiatriche, esatto, è l'inciuccione. Non lo dite troppo forte, che sennò finiamo sul sacro blog. Ecco le prove dell'inciuccio. Attenzione, c'è un attacco a Grillo. E quindi adesso tu, novella, per par condicio, devi fare un piccolo applauso a Beppe Grillo. Beppe Grillo alla sua tranquillità, alla sua pacatezza. Esatto. Quindi tu, Nicodemo, devi contrastare il Maie. Invece hai scoperto il Maie? Cos'è? Chi è che ci dice cos'è il Maie, per favore? Mandateci un SMS. Se vuoi lo googlo subito. Googla, che poi adesso c'è il traffico e poi dopo la segreteria telefonica facci cos'è il Maie, Nicodemo. Tu sei responsabile di comunicazione del PD, devi avere tutto sotto mano, devi sapere chi sono questi nemici del Maie che potrebbero fottervi una valanga di voti, insomma, dovreste saperlo. 24 mattino. 1, 2, 3. Ciao Milan, sono un pensionato, non so cosa pagherei per poter naufragare su un'isola in mezzo al Pacifico con 3 personaggi, Elsa Fornero, Renato Brunetta e la Pina Picerno. Te lo immagini? Io con queste 3 persone qua, che spasso! Alessandro, ma gli ex ministri e i membri di questo partito che sono stati al governo per 20 anni e di cui il 90% sono stati indagati, arrestati, condannati, lo dobbiamo chiamare il partito di Forza Italia o Forza Mafia? Io c'ho la soluzione per il calcio e per tutti i problemi che ne conseguono. Allora, io ci pianterei giù il mais nei campi sportivi italiani. Per almeno 10 anni non farei più giocare nessuno, capito? Quando vieni a Taranto, vieni a vedere la nostra bella Taranto. Il signor Vendola se ne va a Betlemme, qua siamo senza una lampadina, una luce. Volevo ricordare a Renzi che doveva fare pulizia. D'Alema è sempre lì, col suo baffetto. Caro Milan, in certe occasioni è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Cara Sandra, Sandro. Vabbè, insomma, quest'ultima frase io non l'ho capita, era un po' criptica, Federico Novella, tu l'hai capita? No, ma fa sempre un bel effetto, devo dire, sì. come chiosa, diciamo, cara Sandra, ma quello cos'è, meglio aprire bocca, meglio apparire, che ha detto? Ah, ecco, meglio aprire bocca, mia. Secondo me Homer Simpson l'ha detto, non lo so. Comunque, allora, ecco, io però vi volevo chiedere questo: siete per il No Expo? Siete, no, mi è venuto lo spunto da quello che ha detto, basta calcio, mettiamoci i campi di mais. Cioè, c'è in Italia questo modo distruttivo di dire: allora adesso chiudiamo, non siamo in grado di fare niente, non siamo in grado di fare neanche l'Expo, non siamo in grado di fare questo, non siamo in grado di fare quello. E quindi, Francesco Nicodemo, no all'Expo, dovremmo chiudere tutto. No, torniamo seri, diciamo. No, sinceramente è una posizione incomprensibile. Cioè, come si può immaginare che un evento internazionale di questo tipo si blocchi per una vicenda di questo tipo? Bisogna avere piena tranquillità e fiducia nel lavoro che sta facendo la magistratura. La politica deve mettere mano in maniera seria ai temi soprattutto della trasparenza, perché poi secondo me la più forte forma di anticorruzione è rendere i cittadini formati e informati e capaci di controllare di cosa sta succedendo. Però un evento di questo tipo, che può rilanciare anche l'economia del paese, bloccarla per una vicenda di questo genere è il solito, diciamo, semplicistico e di pancia di dire di affrontare cose in questo su paese. Quello su quello sono d'accordo, anche io per il No Expo oggi fanno una campagna elettorale. Esatto, però tu hai detto sì all'Expo, allora Novella tu devi dire No all'Expo, assolutamente. All'Expo, guarda, veramente è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. È per par condicio, è solo per la par condicio. Queste forze però ci sono sempre state, e ti ricordo che volta scorsa riuscirono a far saltare le Olimpiadi. Infatti qua siamo in tre, io dico forse l'Expo. Adesso siamo forse, io dico forse perché sono il conduttore, non posso esprimere. No, sta di fatto che però quando leggo Alfano, oggi intervistato al Quotidiano Nazionale, dice l'Italia ne uscirà cristallina. Ecco, mi sembra che anche questo non si possa dire non ne siamo usciti in maniera cristallina per queste vicende, perché pensare che adesso si risolva tutto, non so, Federico Novella, che sia tutto come prima. Il problema è che, come vedi, insomma, hanno arrestato un altro personaggio, c'è sempre il rischio che, come dire, questa famosa cupola possa allargarsi poi nelle indagini. Diciamo che mentre l'altro ieri aspettavamo l'Expo con un po' di entusiasmo, adesso abbiamo un po' di timore che almeno duri poco questo Expo, c'è il rischio di infangarsi un po'. Ma attenzione, è il momento verità. Allora, Nicodemo, il Maie, hai capito? Hai googlato? Grazie ai potenti mezzi di Wikipedia. ho googlato anch'io. Movimento Associativo Italiani all'Estero, partito fondato l'8 marzo del 2008. Sì. Dell'onorevole Riccardo Antonio Merlo, già deputato per AIS al Senato, e Mirella già i candidati. Quindi cioè, tu ce l'avrai, Federico, ce l'avrai ospiti? Sì, non oggi, però in settimana ce li avrò. Sì, ma non con questo tono. Grande applausi al Maie. Comunque, hanno tre deputati al Parlamento, alla Camera e uno al Senato, tra cui Mario Borghese al Parlamento, alla Camera, e Claudio Zinna al Senato. Capisci? Nicodemo è informatissimo, secondo me ha un passato nel Maie. Non lo so, forse sta per tradire il Partito Democratico in nome del Maie, per diventare il quarto deputato del Maie. C'è da dire questo, voglio solo un commento finale, c'è tutta la vicenda Sky

una analisi approfondita di tutto quelle che sono le foto, il caso Bacchiddu, mostrare il culo o non mostrare il culo, ma vi rendete conto? Vi rendete conto come costi la carta? E non lo sanno. Un punto al secolo, giornale radio. Mattino. Sono le 8:17, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci cari ascoltatori. Allora, su una cosa il ministro Lupi, che viene intervistato oggi a Repubblica, probabilmente ha ragione quando dice che l'immagine che stiamo dando è quella di un'Italia che non è in grado di realizzare una grande opera come l'Expo senza sporcarci le mani. Certo, poi nella stessa intervista Lupi deve passare la maggior parte del tempo a giustificarsi, a spiegare, a dire non c'entro nulla, visto che il suo nome viene accostato a quello delle persone arrestate, il suo nome come quello di altri politici in maniera bipartisan. Il Movimento 5 Stelle dice presenteremo una mozione di sfiducia proprio nei confronti del ministro Lupi. Lui dice sono tutte millanterie, non ho mai ricevuto bigliettini, non sono mai stato legato a nessuno di questi appalti. Sta di fatto che accanto ai verbali che ancora oggi raccontano di questa presunta cupola di affaristi, alcuni dei volti già noti all'epoca di Tangentopoli, che tendeva a spartirsi gli appalti dell'Expo, ma anche gli appalti per esempio della Città della Salute, che è il polo sanitario che dovrà essere costruito a Sesto San Giovanni, insomma, accanto a questo, accanto dunque all'inchiesta, c'è una domanda sotto sotto che da alcuni giorni lo stesso Lupi in qualche modo la pone velatamente: è, visto che non siamo in grado di fare queste grandi opere senza sporcarci le mani, non è il caso di non farle? Questo vale per l'Expo come vale per tante altre iniziative. Il presidente della regione Lombardia Maroni ieri ha detto arrivano i soldi o la regione si sfila dall'Expo, mentre oggi in qualche modo ha una risposta a distanza su Repubblica. Il sindaco di Milano Pisapia dice l'Expo si deve fare, è un impegno ormai solenne che va onorato, neppure una Repubblica delle banane potrebbe tirarsi indietro a questo punto senza distruggere la propria reputazione. Allora, di questo vogliamo parlare con anche le vostre telefonate all'800 24 00 24. Lo facciamo con colui che mi pare abbia buttato lì l'idea di dire ma a sto punto non facciamola più l'Expo, il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Buongiorno sindaco e ben ritrovato, eccoci. Buongiorno. Qua non ho mai detto una cosa del genere, è stato un tweet interpretato un po' forzatamente da qualche agenzia. Ovviamente avevo chiesto un time out, cioè uno stop per decidere cosa fare e come andare avanti. Non si poteva far finta di niente. Devo dire però che Matteo Renzi non mi ha deluso neanche questa volta, nel senso che la nomina di Raffaele Cantone, un grande magistrato napoletano, come commissario dell'Expo, credo sia una risposta fortissima, bella e nello stile di un'Italia nuova. Ovviamente che Milano sia purtroppo un grumo di interessi, come posso dire, che determina gli appetiti di tanti soggetti che purtroppo non hanno la legalità come faro della loro vita, è un dato di fatto. Milano ha bisogno di liberarsi di questo accerchiamento e l'Italia ha bisogno di liberare Milano da questo assedio, perché Milano è il cuore economico del paese. Certo, questo cuore economico questo virus, bisogna guarirla, bisogna guarirla in fretta. Laddove ci sono soldi e interessi, purtroppo ci sono anche gli affari. E tra l'altro lei ha parlato di Cantone, Cantone domani Renzi sarà a Milano, non si sa insomma se è commissario o comunque un ruolo di supervisore, da garante, da presidente dell'autority anticorruzione verrà dato a lui. Mi faccio salutare anche il nostro Oscar Giannino. Buongiorno Oscar e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, dovremmo, siccome non siamo in grado di fare l'Expo come tante altre cose senza sporcarci le mani, uso le parole del ministro Lupi, tanto vale non farle? Ma no, cioè questo è, voglio dire, è la dichiarazione di una classe politica che abdica a qualunque cosa, cioè che inalbera bandiera bianca e pretende poi anche di non avere responsabilità. Cioè, chiunque proponga una cosa simile ha due ragioni: o non è capace, e questo riguarda la discontinuità che bisogna far intervenire nel sistema della regione Lombardia, perché oramai è dimostrato, cioè c'è un blocco di potere che va avanti da 20 anni e che purtroppo non ha avuto la capacità, la voglia più che la capacità di mettere anticorpi necessari dentro, e questo riguarda l'incapacità. Oppure ha meri interessi di campagna elettorale, come altri che magari avrà invitato oggi, che diranno che naturalmente l'Italia è in ginocchio, più finisce in ginocchio, più prendono voti, ma io di quelli non voglio parlare. No, vabbè, l'Italia può e deve imparare dagli errori, e una politica che dice non facciamo niente perché non siamo capaci, restiamo alle tangenti, allora a quel punto ha ragione chi dice vada a casa, secondo me. Forse ti riferisci al Movimento 5 Stelle, dopo avremo Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle. Capisco che dice andate a casa, se ci sapete solo dire, se non sapete fare le cose senza tangenti. Non capisco se invece gioca tanto peggio e tanto meglio. La mia opinione è chiara, in Lombardia c'è un sistema che non ha avuto inoculati dall'interno e dall'esterno gli anticorpi necessari. Ecco, per esempio, a proposito di questo sistema, il ministro Lupi oggi viene intervistato da Repubblica e passa gran parte dell'intervista a dire ma CL non c'entra niente, CL educa la fede, CL forse parte di quel grumo a cui faceva riferimento Emiliano, caro Oscar Giannino, è anche riferito al potere di CL? Te lo chiedo. Ma è riferita al fatto che sappiamo qual è stato l'indirizzo politico in 18 anni del sistema Formigoni, però io sono chiaro, il sistema Maroni è in totale continuità. Maroni, quando prima di candidarsi un anno e mezzo fa, ha avuto un mucchio di gente che gli andava a spiegare devi interrompere la continuità. Interrompere la continuità non significa essere per CL, non per CL, significa introdurre alcune questioni fondamentali, infrastrutture lombarde, che è la più grande agenzia pubblica decentrata in Italia a gestire opere pubbliche, tranne quelle nazionali, è un'agenzia nella quale non sono stati introdotti gli elementi di discontinuità sulle nomine politiche. La politica non deve nominare il direttore generale di infrastrutture lombarde, questa cosa riguardava anche le ASL e così via. Ecco, questa roba qua, per me, il sistema Maroni è di continuità totale. Non mi interessa se lui è leghista o di altro CL. Il problema è non vedi quella che rottura. È lo stesso tipo di tipologia di nomine. E questo è il punto di fondo. E così si spiega il fatto che Rognoni, un manager, vuol dire la cui capacità di lavoro ho conosciuto anch'io, incredibile, però il direttore generale di Infrastrutture Lombarde, alla fine, quando gli arrivavano le segnalazioni politiche di quel sistema, e acconciava le gare come diceva quel sistema, quindi c'è un problema, quel sistema va interrotto. Non l'hanno saputo fare dall'interno, bisogna interromperlo dall'esterno. Io mi stupisco sempre quando, e vorrei coinvolgere Emiliano che oltre che sindaco è appunto anche magistrato, quando si invoca il magistrato, in questo caso l'arrivo di Cantone come la panacea per risolvere tutti i mali, è davvero così, cioè ci vuole l'uomo forte, il magistrato che controlla tutto, oppure come dice Giannino è il sistema delle collusioni tra le collusioni, non per forza in senso negativo, ma della politica che inficia le nomine, sceglie e poi dopo è il sistema che crea queste situazioni. No, io voglio dire questo, noi abbiamo avuto in Italia diversi fenomeni stupefacenti, la trasformazione per esempio della militanza comunista in affarismo, la trasformazione dell'adesione, perché CL è un fenomeno come posso dire sociale e religioso estremamente interessante, però anche lì dentro si sono andati a infilare una serie di personaggi e hanno trasformato la fede in Dio in una perversione di corruzione. Del resto questa cosa, come posso dire, è avvenuta anche in altri importantissimi luoghi. Se Papa Francesco è costretto a intervenire sullo IOR in una certa maniera, evidentemente ce n'era bisogno. Quindi il punto non è darsi la colpa e stabilire, come posso dire, che il male ha una responsabilità in CL o nel PD o in... Il male è ovunque gli si ceda spazio, e per evitare che questo avviene c'è una sola soluzione: avere molti uomini onesti in grado di rischiare anche la propria carriera in qualche caso. Bisogna ovviamente proteggerli questi uomini, perché se le persone per bene che erano nell'organizzazione di Expo e che stavano curando per esempio gli espropri e le trasformazioni urbanistiche delle aree che invece dovevano essere destinate alla Casa della Salute sono state sistematicamente cacciate via dalla Regione Lombardia perché bloccavano alcuni disegni, perché questo è avvenuto, o comunque questo si ha l'impressione che sia avvenuto, è evidente che niente poi si oppone al dilagare della corruzione. Sono gli uomini e le donne, sono i singoli soggetti che sanno opporsi a questo modo di ma ho capito, dire. Ma un magistrato perché... che può fare? Cioè arriva a Cantone e che può fare? Un magistrato innanzitutto ha delle competenze. Certo, forse non ha un'esperienza di gestione, però probabilmente il ruolo che il Presidente del Consiglio ha tagliato per Cantone non è quello di sostituire Sala, che probabilmente rimarrà nel processo, anche perché a questo punto sarebbe... insomma, Sala ha delle responsabilità oggettive, tra virgolette, ne è consapevole e gli si legge il dolore di questo sul viso, perché sa di essere stato tradito dai suoi principali collaboratori, non sarà mai una bella cosa per lui un evento del genere, però è evidente che un magistrato può essere, come posso dire, un punto di riferimento di chi sta lavorando in concreto. Lì ci sono 18-19 gare, se ho capito bene, che sono tutte viziate, sono gare che rischiano di saltare, sono gare che possono essere impugnate da chi le ha perse, per esempio, e ritardare moltissimo i lavori. Probabilmente per salvare Expo sarà necessario anche un intervento normativo. No, ma certo, però io in questo, però, mi scusi Emiliano, capisco un po' l'urlo di dolore, se vuole, il grido di dolore di Oscar Giannino, che è lo stesso che ci ha fatto, caro Oscar, Gerardo Colombo nei giorni scorsi qui venerdì ai microfoni, a dire ma io vedo le facce di Mani Pulite ancora, ma se pensate che la via giudiziaria, la via delle manette, sia la via per ripristinare la legalità, sbagliate di grosso, perché il magistrato sì certo interviene laddove c'è un'ipotesi di reato, ma no, Oscar, tu dicevi, se il sistema non cambia, metti un altro magistrato che forse scoprirà qualche altra cosa. Ma non interviene come magistrato. No, certo, certo, però voglio dire... È un uomo per bene, competente, che viene adesso... adibito a funzioni che no, ma questo sì, però l'idea, cioè quando Oscar tu dici cambiare il sistema, perché sennò vabbè, ne scopriremo altre. La risposta è articolata in due punti secchi. Primo, un magistrato a questo punto serve solo a evitare che qualcuno dell'entourage continui a mandare pizzini, bigliettini e si permetta di fare quello che facevano con il direttore generale Rognoni di Infrastrutture Lombarde e come, con mio grande stupore, si sono permessi di fare anche con il capo d'avanzamento progetti, cioè Paris, che è tra gli arrestati dell'Expo. Con un magistrato di sicuro nessun Frigerio, nessun Greganti, nessuno del sistema vicino a Mantovani e così via manderà bigliettini o farà più richieste improprie, per ovvie ragioni, no? Che però non è la vera soluzione, perché è una semplice, per così dire, garanzia di metus, di timore. La seconda cosa, parliamoci chiaro, quando io dico interrompere il sistema, significano due cose: che primo, chi ha vinto le elezioni in Lombardia e secondo me non ha capito bene cosa era successo prima; secondo, qui le responsabilità sono condivise, perché noi per 2 anni e mezzo abbiamo assistito a un balletto tra Regione Lombardia e Comune di Milano Pisapia, quindi due colori politici diversi, nei quali ognuno tirava l'acqua al suo mulino. Pisapia non ha mai voluto essere coinvolto, sapendo che c'era uno scontro politico enorme da fare con Regione Lombardia, nel dire si fa così, così, così, così o niente. Regione Lombardia ha detto: siccome noi siamo più forti, alla fine prevaliamo. Quindi mi dispiace se si arriva adesso a un anno a questa figura di melma di fronte al mondo. Le responsabilità del sistema politico purtroppo sono condivise, nel senso che ce n'è una preminente dopo 20 anni di indirizzo politico in un senso, ma a Milano c'è chi si è voluto girare dall'altra parte sperando che finisse così, e questa, a mio piede, è la politica di chi fa il conto: ma sì, lasciamone andare a sbattere, così poi alla fine ci lucreremo i votare. E invece tu dici, dove bisognava intervenire per cambiare, per rompere, per fare un segnale di rottura. Andiamo a sentire la pubblicità, poi rientriamo con Michele Emiliano, Oscar Giannino, e ci sarà appunto Riccardo Nuti, anche del Movimento 5 Stelle, che è il movimento che più di altri alza la voce a dire basta, chiudiamo, insomma, non facciamo l'Expo. Bisogna capire se, come dice Oscar Giannino, se per meri fini elettorali siamo in campagna elettorale o se per motivazioni che Nuti ci spiegherà. 24 mattino. E allora alle 8:36 minuti rientriamo in diretta a questa Expo un po' terremotata dalle inchieste, sa da fare o no? Abbiamo sentito il perché del sì, ma da Oscar Giannino e da Michele Emiliano. Voglio salutare anche Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle, deputato, presidente del gruppo. Buongiorno onorevole Nuti, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, perché voi intanto chiederete una mozione di sfiducia per il ministro Lupi, che oggi su Repubblica si difende, dice sono solo millantatori quelli che nell'inchiesta, insomma nei verbali, dicono di avere appoggi nei miei confronti, in realtà non c'è nulla e non è indagato. Perché ne chiedete la sfiducia? Veramente al momento abbiamo chiesto che venga a riferire in aula, abbiamo anche pubblicato la lettera inviata alla Presidente Boldrini dove facciamo questa richiesta di un'informativa in aula da parte del Ministro Lupi. Successivamente, in base a quello che ci dirà, comunque stiamo valutando eventuale mozione di sfiducia, perché è il Ministro responsabile di questo settore delle infrastrutture. Perché invece allora no all'Expo? Ecco, ci spieghi questo. Oscar Giannino prima diceva forse è una questione anche di campagna elettorale, porta voti, voi siete contro l'Expo, cioè secondo voi bisognerebbe bloccare tutto a questo punto? Beh, guardi, la motivazione della campagna elettorale può reggere se il Movimento 5 Stelle avesse preso questa posizione solamente ora o in prossimità di questo scandalo. Peccato che è da 4-5 anni che ne parliamo, quindi non si può dire che lo stiamo facendo per campagna elettorale. Il no all'Expo è motivato dal fatto che non si può pensare di realizzare una grande opera dove in pratica si danno continuamente soldi all'andrangheta e alla corruzione. Noi avevamo avanzato la possibilità di un altro tipo di Expo diffuso e sostenibile che era stato realizzato dal Politecnico di Milano, però questo non è stato ascoltato, non è stata valutata per tempo come proposta e quindi ora ci ritroviamo a pochi mesi, diciamo, dall'inizio dell'Expo, sì, con un'opera che in realtà è fallimentare e che ha visto tutta la politica coinvolta, sì, dentro questa. Mi faccia scena. Capire però, Nuti, voi dite no all'Expo perché avevate questo progetto alternativo da portare avanti del Politecnico, o voi dite siccome l'Italia non è in grado di fare le grandi opere se non sporcandosi le mani, come dice il ministro Lupi, cioè c'è troppa corruzione, allora con questo principio non bisognerebbe fare un'infrastruttura, non bisognerebbe fare nulla, non bisognerebbe bloccare tutto. Semplicemente visto che nel realizzare questo tipo di opere non si vogliono adottare delle politiche, dei controlli rigidi, cioè in Italia ogni volta che si fanno delle grandi opere c'è il rischio e poi purtroppo si concretizza delle mafie dentro queste opere, avevamo una proposta alternativa che però non è stata valutata. Che mi faccia capire in breve questa proposta. L'obiettivo non è quello di non fare mai nulla, ma di fare le cose in una maniera tale da non alimentare le mani. Sì, ma ecco, mi faccia capire come le risorse disponibili già presenti. Come si può? No, certo, questo l'ho capito. Mi spieghi concretamente come si può trovare un sistema a prova di mafia in questi. Guardi, tanto per iniziare non bisognerebbe avere le proprie cooperative che prendono gli appalti, come è capitato con la CMC di Ravenna, perché se prendo un appalto di 90 milioni, poi lo vinco con una cifra di 58 milioni, sì, e dopo qualche mese ne chiedo altri 30 come extra costi, lei capisce bene che già si stanno falsando i numeri. Ho capito, ma vorrebbe dire, cioè bisognerebbe escludere, adesso lei ha citato una cooperativa che è anche molto famosa, importante, cioè la CMC andrebbe esclusa per principio. Ma non è solamente la CMC, è una questione che finché la politica vorrà gestire gli appalti in questo modo, a spartirsi i milioni e milioni di euro che ci stanno dietro, non se ne uscirà. Cioè quando si mette il cantone di turno come l'uomo che possa risolvere il problema, sì, mi scusi ma con tutto il rispetto per Cantone, è una presa in giro, perché non ci si può aspettare da Cantone che in pochi mesi controlli tutti gli appalti e che fa, si mette a fare lui i lavori. No, ma è chiaro, anche lei dice insomma che sta nel sistema, nel modo in cui viene fatto. Mi faccia sentire un attimo, Nuti, sia Emiliano che Giannino. Emiliano, cosa le piace e cosa non le piace di questo discorso che fa il rappresentante? Purtroppo, lo dico purtroppo perché voi sapete che io tento disperatamente di costringere il Movimento 5 Stelle ad avere un atteggiamento di governo, cioè non solo di denuncia ma anche di governo. Il discorso di Nuti finisce lì, cioè paralizziamo tutto il paese e bonifichiamoci, diciamo così, in una specie di blocco generale delle attività, perché tanto siamo un paese maligno e non c'è niente da fare. Io sono di un'altra idea, sin da quando a 25 anni sono andato alla Procura della Repubblica di Agrigento, quando noi le partite con la mafia le perdevamo tutte, si saltava per aria nelle macchine, e c'erano moltissimi magistrati, lo dico chiaramente, che non giocavano per lo Stato, eppur tuttavia io sono rimasto un magistrato perché mi sono schierato dentro le istituzioni senza buttarle via, assieme ai principi nei quali credevo, e mi sono battuto per cambiare le cose, ma senza dire che tutto è da rifare come Bartali, diciamo, quando perdeva le tappe legislative. Ecco, noi abbiamo bisogno del Movimento 5 Stelle che ci dia una mano con i suoi voti, ma anche con le sue idee. L'idea dell'Expo diffuso senza impatto ambientale è un'idea buona, noi avevamo persino immaginato, ma avevano preso a fischi, di fare le Olimpiadi al Sud utilizzando tutta la Puglia senza opere di grande impatto, e questa è una buona idea. Ma da qui a dire che noi non siamo in grado di gestire un evento come l'Expo è sbagliato. Oscar, tra l'altro preannuncio questo, tra 10 minuti l'abbiamo chiamato e gentilmente ci concederà 2 minuti perché dice non voglio parlare di cose che non ho ancora iniziato, ma avremo Raffaele Cantone in chiusura di trasmissione con noi, quindi vi prego di stare con noi e ascoltare anche le sue parole tra poco. Oscar Giannino, cosa puoi rispondere al Movimento 5 Stelle? No, ma io do atto volentieri da giornalista, da osservatore, che 5 Stelle è vero che da prima che partisse la quadra dell'Expo metteva su l'avviso, quindi in questo ha ragione. Dopodiché io ne deduco che a quel punto sia conseguente dire vada a casa chi ha la responsabilità politica a Milano, eccetera. Cosa diversa è dire, ma mi pare di capire che non ti corregge su questo, non facciamo nulla perché questo è un paese in disarmo. No, questo opinione... infatti non lo dice ma, si può fare. E quindi io questo gli do atto. La mia opinione è netta, cioè, ma è sempre la stessa da anni. Si vuole che una regione come la Lombardia, come tante altre in Italia, tutte, ma quella della regione Lombardia è più potente perché muove 18 miliardi di euro l'anno di risorse, abbia una propria agenzia per l'infrastruttura pubblica. Bene, i politici non devono nominare i responsabili apicali operativi. Ma chi li nomina? Chi li dovrebbe nominare? Si fa una bella consultazione, ci vuole una legge nazionale sulle nomine, una bella consultazione di rettori del Politecnico, della società civile, eccetera, eccetera, con bandi di concorso sull'Economist e così via. La stessa cosa della sanità, fino a che la politica non capirà che i direttori generali della sanità non devono essere nominati dalla politica, ma siccome sono manager che muovono pacchi di centinaia di milioni l'anno, devono essere presi come manager. Però lì c'è un grande dibattito, sai Oscar. Mi dispiace che questo i sindaci però italiani, qualunque colore, non ne prendono mai queste decisioni, perché se vai a vedere i nominati dei Magistris a Napoli o quelli di Marino a Roma, eccetera, è la stessa pappa, li vogliono nominare loro. E allora a quel punto gli interessi più vicini a questo o quel blocco si fanno vedere. Perché ti dicono la ASL persegue un indirizzo politico che è dettato dalla regione. Ma gli standard restano pubblici. Certo, la maniera perdonami, le forniture al miglior costo e per lo standard di miglior servizio. Questo sì, non c'entra, però niente. Io ti chiedo Oscar, perché se si dice devono perseguire un indirizzo politico subito vuol dire che si va nella collusione o nel rischio anche di sfociare nel reato? Perché in Gran Bretagna i manager pubblici, ripeto, legge sull'Economist bando? Perché hanno preso atto in 200 più anni che la politica di storia parlamentare, che la politica è fatta di interessi e bisogna separarli nella pubblica amministrazione. L'articolo 97 della Costituzione, quello che dice la pubblica amministrazione teoria indipendente, da noi l'abbiamo messa al servizio dei partiti e poi è quello che succede. Allora, poi più i partiti restano in carica per decenni, peggio succede. Però io vorrei sapere, dopo il traffico, torno da Riccardo Nuti per capire esattamente, perché effettivamente alcuni ci hanno risposto, cioè come si può fare una Expo, a prova di mafia, cioè nel senso senza poi andare a scoprire queste cose. Qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle, visto che abbiamo appurato che non è la ricetta disfattista del non facciamo niente? Allora, eccoci qua, onorevole Nuti, ha sentito sia Emiliano sia Giannino, cioè ci faccia capire, perché io non ho approfondito esattamente che tipo di Expo voleva il Movimento 5 Stelle e come poteva essere a prova di appalti truccati. La proposta era del Politecnico di Milano ed era quella di utilizzare le strutture già esistenti all'interno di Milano per realizzare questo tipo di opera. Sì. Ovviamente nel momento in cui si cerca di avere fretta e di costruire in un terreno agricolo per renderlo edificabile, come invece è il progetto attuale, è chiaro che si va sempre più incontro a questo tipo di infiltrazioni mafiose. Purtroppo non si può dire ormai ci siamo, lo dobbiamo fare, quindi anziché dire un no netto all'andrangheta delle mafie, si dice vabbè, forse non possiamo farne a meno. Però lei, scusi, mi sta quando... dicendo, lei mi sta dicendo usare le strutture, perché laddove ne costruiamo altre, purtroppo la realtà è questa, bisogna caschiamo nella mafia di questo, perché se si continua a dire no, ma non è vero, non è tutto così. Io che sono di Palermo e sono siciliano, è da 20 anni che sento dire queste cose e non possiamo più continuare a minimizzare il problema. Certo, però è molto pessimista, Nuti, come discorso, cioè, perché realista, il concetto è realista. Se non capiamo che la mafia è ovunque, ovunque, e non capiamo che la classe politica che abbiamo è responsabile in toto di questa situazione, non ne usciremo mai. Sì. Perché noi cosa facciamo? Fra una settimana facciamo finta di scordarci dell'Expo, così come ci siamo scordati di tutti quegli altri scandali dove le infiltrazioni mafiose ci sono state. Allora, se vogliamo risolvere definitivamente il problema, dobbiamo avere dei partiti politici e delle persone che dicono no alla mafia, e anziché dire forse ormai non possiamo farne a meno. Ripeto, la proposta alternativa c'era, non è stata realizzata, e ora si vogliono fare le cose ancora più velocemente, in fretta e furia, dove ovviamente con i tempi ristretti controlli non ce ne sono. Certo. E mi permette di dire una cosa, sì. Se noi dobbiamo avere come responsabili coloro che, quando gli proponi di abolire il vitalizio di 6.000 euro per un condannato per mafia come Cuffaro, come ha fatto il PD in Sicilia, sì, mi scusi, ma cosa ci vogliamo aspettare? Vogliamo ricordare la vicenda del responsabile però... welfare e scuola Davide Faraone del PD, cosa ho raccontato io in aula e come appunto si è... Vabbè, ma insomma adesso questa insomma è un'altra vicenda, però lei dice questa classe politica che è poco legittimata. Però Pisapia oggi dice ci sono 140 paesi che arrivano, 200.000 nuovi posti di lavoro, cioè se ci ritirassimo adesso faremo una figura di melma, uso l'espressione di Oscar Genio, mondiale. Questo è il concetto detto. Comunque io vi chiedo un attimo di pazienza, sia Michele Emiliano, Oscar Giannino, Riccardo Nuti, perché lo ringrazio per essere con noi qualche minuto, anche se ovviamente il suo lavoro non è ancora iniziato, ma su tutti i giornali c'è già. Raffaele Cantone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, dottor Cantone, intanto ci faccia capire, per quello che si può capire, e quale sarà il suo ruolo, se sarà operativo, se cosa vuol dire vigilerò sull'Expo. Questo voglio capire anch'io, lo capirò anch'io. Domani sarò a Milano col presidente Renzi, in quella occasione capisco bene che quale sarà l'idea, diciamo, di questa task force, chiamata task force, soprattutto quale viene riconosciuto non a Raffaele Cantone, ma alla struttura che io presiedo, cioè all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Io non ho ancora chiaro, perché diciamo è semplicemente tutta una questione in itinere, tutta una cosa in itinere, quindi io non sono in grado di rispondere a questa certo. domanda. E le chiedo solo questo, dottor Cantone, perché lei ha detto la politica deve rialzare in qualche modo la testa, se si vuole. C'è una responsabilità sulla politica in generale che lei ha visto anche leggendo quello che ha letto sui giornali in questi giorni? La responsabilità principale della politica sia stata quella di sottovalutare il fenomeno, cioè di girarsi un po' dall'altro lato, che la questione Expo si è fatto per esempio grande diciamo attenzione alle infiltrazioni della mafia, e forse questa visione un po' strabica ha fatto sì che ci sia stata un'attenzione minore rispetto alle infiltrazioni che non sono meno pericolose degli affaristi. E l'ultima cosa è questa, lei appunto sarà a Milano, sa che ci sono molti che dicono no l'Expo, lei invece dice l'Expo va fatta, è un impegno da mantenere? Io credo che diciamo rinunciare all'Expo, questa è una valutazione politica, sia chiaro, quindi a me non compete, certo. Io però da cittadino, e questo lo dico da cittadino, credo che rinunciare all'Expo, soprattutto adesso, non rinunciare a priori, significa dimostrare che l'illegalità vince. Cioè significherebbe dimostrare che siccome ci sono fenomeni corruttivi in basti, lo Stato non è in grado di far argine a questi fenomeni. È come quando si dice non facciamo una partita di calcio perché c'è il rischio tifosi. È chiaro, è evidente che queste sarebbero da tanti punti di vista delle sconfitte che io credo che la nostra democrazia non si può diciamo permettere. Però questa è una mia valutazione da cittadino, io sono un funzionario dello Stato. Se mi viene chiesto qualcosa che è nelle mie possibilità, lo faccio, le valutazioni politiche rispetto alla data. Certo. Non sa comunque il ruolo ancora, dovrà capirlo. Non è che sostituirà Sala, io no? Io credo che è tutto in costruzione. È tutto in costruzione. Vabbè, c'è anche il cellulare che ci assiste poco, intanto la Nazionale Anticorruzione. Intanto, sì, no, intanto la ringrazio perché il cellulare ci ha poco assistito. Alla fine lei rimane, rimane comunque nel alla presidenza dell'anticorruzione, sì? Assolutamente sì, è quella la mia, il mio obiettivo, è quello che intendo portare a termine fino alla fine dei 6 anni. Perfetto, intanto la ringrazio ovviamente, buon lavoro, grazie dottor Cantone. Oscar Giannino ovviamente ci ha detto e ci aveva promesso, posso fare poche valutazioni, poche battute, perché insomma l'incarico ancora formalmente non c'è, però intanto ci ha detto che l'Expo, anche se da privato cittadino, deve andare avanti, perché sennò sarebbe come consegnare, dire ok, ha vinto la criminalità. Oscar. No, la criminalità purtroppo in qualche misura ha già vinto, non è quella delle grandi mafie ma è quella delle reti collusive politiche. Io concordo con Cantone, abbiamo visto per anni da giornalisti un mucchio di conferenze stampa mi sono annunciati per l'andrangheta e la mafia sull'Expo, non le abbiamo viste le stesse dichiarazioni e nei fatti anti reti collusive all'interno della politica. In tutto questo comunque Pisapia come Maroni sanno perfettamente che il 50% delle opere su cui si erano impegnati, quelli per cui hanno voluto l'Expo pesante, non leggera, quella di cui parlava Nucchi, cioè non la Berlusconi, la 457, non ci saranno. Non ci saranno. Ma che succede quindi? Cioè, voglio dire, ma che vuol dire non ci saranno? Ma non ci saranno perché sono comunque, quando anche non fosse successo questo scandalo degli arresti, sì, non finiranno, che leggiamo, non le avrebbero realizzate perché la PA si prende più tempo perché vuole fare le varianti d'opera e vuole più soldi. Ma no, ma è chiaro, ma sul Sole c'era scritto 2 giorni fa. Insomma, metà delle opere non verranno ultimate. Non so, Michele Emiliano, lei insomma, ha colto dalle poche parole che Raffaele Cantone ci ha potuto dire un qualcosa, un segnale di ottimismo. So che lei, insomma, anche da collega, da magistrato a magistrato, sarà fiduciosamente con lui, no, in questo incarico gravoso. Insomma, io conosco Raffaele, ovviamente in lui ho una grande fiducia, si tratta di una persona splendida sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Dopodiché che l'Expo sia un, diciamo, come adesso devo misurare le parole, che l'Expo sia una cosa cominciata male e proseguita peggio, non c'è assolutamente dubbio. Il problema adesso è come salvarlo senza fare la figura di melma di cui si parlava. Governare è questo. Se uno come me, che fino a 43 anni non aveva la benché minima idea di fare politica, a un certo punto è stato, tra virgolette, costretto dalla sua coscienza e dalla sua città a fare il sindaco di Bari, in un momento in cui Bari era rappresentata nel mondo come una città perduta, e ha fatto il sindaco per 10 anni senza che né io né la mia amministrazione abbiamo avuto neanche un avviso di garanzia. Sì. E abbiamo trasformato una città difficile in una cosa almeno gestibile, ecco, adopero questo termine, perché molti di noi, anziché limitarsi a fare la critica al bar dello sport, si sono, tra virgolette, sporcati le maniche, anche cambiando la propria vita e mettendosi a dice, lavorare. È gestire la politica. Gestire le cose. Su questo bisogna fare la stessa cosa. Su questo mi lasci dare 20 secondi però a Nuti, perché poi devo chiudere. Ha sentito Cantone? Vorrebbe dire sconfiggere, darla vinta alla mafia, andare a dire no. Dire no all'Expo. Secondo me è arrivato il momento che l'Italia diventi un paese serio, e diventa un paese serio nel momento in cui prende coscienza che c'è un problema che non è in superficie come quello delle infiltrazioni mafiose e dice: signori, siamo un paese serio, o meglio cerchiamo di diventarlo, quindi questa volta quest'opera non si fa, facciamo una vera riforma sulla anticorruzione, e noi su questo abbiamo depositato le nostre proposte, e quindi facciamo sì che in futuro le opere si facciano per tempo e con dei controlli adeguati. Chiaro, però per il momento che non si faccia. Vi ringrazio, mi devo fermare qui, ricordo alle 16.30 torno Oscar Giannino ovviamente qui a Radio 24 come ogni giorno. Grazie a Michele Emiliano, Riccardo Nuti, a tutti, e ci sentiamo domattina alle 6.30.